I tuoi testi sono sempre stati fatti da Mogol. Hai influito qualche volta nella sua scelta dei testi, oppure tu non ci sei mai entrato praticamente, li hai accettati, diciamo, passivamente? Ma passivamente no, però tecnicamente, dal punto di vista proprio di creazione del tecnico, del testo, è opera di Mogol, i testi sono opera di Mogol. È evidente che c'è tutto un discorso umano prima, cioè siccome noi ci frequentiamo al di fuori anche del rapporto professionale. Anzi, si può dire che è una storia abbastanza strana perché non ci vediamo magari per 6 mesi, lui è da una parte, io sono da un'altra parte, e dopo 6 mesi, prima di scrivere, si parla, si sta insieme così, e sì, magari si scopre che ci sono degli argomenti di cui ci interessa parlare o delle scoperte, perché l'uomo scopre sempre, secondo me, delle cose nuove della vita e del vivere assieme, dei problemi suoi sentimentali, personali, e da questa identità di vedute che poi nasce però poeticamente ed è opera esclusivamente di Giulio, il testo, insomma. Si è parlato per tanto tempo di un Lucio Battisti che non voleva concedere interviste o cose del genere. E io non so, vorrei sapere da te esattamente se esisteva un motivo per tutto questo. Il motivo esisteva e esiste ancora. Le interviste, dice, perché stai a fare l'intervista adesso? Poi magari di questo ne parliamo, ma intanto perché non l'ho fatte, non le faccio, soprattutto nei giornali, dove esiste quella famosa manipolazione, ma una manipolazione proprio sfacciata, smaccata, insopportabile. Voglio dire, non esiste che io sono lì per fare un discorso con te, bello, aperto, e poi dopo mi ritrovo completamente diverso da quello che sono. Cioè, allora lo faccio una volta, lo faccio un'altra volta, poi spero, uno si mette in ginocchio e mi dice ma no, vedrai, e tutto quanto, lo faccio una terza volta, una quarta volta, alla quinta volta, siccome io sono molto svelto, alla quinta volta ho capito, cioè alla cinquantesima volta, perché ho capito finalmente e ho capito che non esiste. Cioè, è un rapporto completamente sbagliato. Cioè, cosa succede? È successo che sono 5 anni più o meno che non faccio interviste, nel senso classico della parola, cioè con quello che arriva lì, con il registratore, con la matita e qualcosa. È successo che hanno continuato a scrivere le stesse cose. Esattamente le stesse, ma con un piccolo particolare, che io non c'entravo più niente. Cioè, in un certo senso, non è che io abbia risolto molto sul piano generale, però se non altro l'ho risolto sul piano mio personale e particolare, se non altro io non sono né a disposizione fisicamente, come tempo, come disponibilità, e soprattutto non è che non sia responsabile, ma qui facciamo un discorso troppo lungo, ma dico, se non altro non sono responsabile di quello che scrivono, perché prima mi facevano scrivere delle cose dicendo che l'avevo dette io, adesso le dicono, ma almeno io non mi sento connivente con questo discorso qui, capisci? Col discorso di fare la fotografia sotto l'albero di Natale o col panettone, capito? E queste cose qui, cioè.